Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Naturalmente oltre alle frequenze in modulazione potete ascoltarci anche tramite il web scaricando l'apposita app che potete trovare gratuitamente sul nostro sito radiocittafujiko.it. Ogni mercoledì, più o meno, visto che mercoledì prossimo sarà festa, comunque ne parleremo più tardi, e ogni mercoledì più o meno, dicevo, alle 10.30 parte Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo, di tutti i generi e di tutte le epoche. Un paio di ore di musica dal vivo che iniziano sempre con una novità e anche oggi non è da meno, anche se poi la volta scorsa, se ricorderete, la novità non c'era perché era tutta la prima parte era interamente dedicata al Record Store Day, al quale spero abbiate partecipato attivamente. Oggi torniamo con la novità ad opera di uno dei capisaldi, uno dei grandi della musica rockabilly mondiale, anche se credo che qua in Italia non sia molto conosciuto. Si chiama Reverend Horton Heat. In realtà questo cantante chitarrista si chiama James Heat, viene da Corpus Christi nel Texas, ma ha formato la sua band, appunto Reverend Horton Heat, a Dallas nel 1986. Non si può, non meno da parte mia, non apprezzare un cantante, chitarrista, una band il cui maggior successo si chiama It's Martini Time, Martini inteso in senso di cocktail, in senso di aperitivo, mettetela un po' voi. Quello che vi propongo oggi è un combo, cioè un CD più DVD che si chiama semplicemente Live in Houston, un album che è stato registrato al Warehouse di Houston, chiaramente il 18 settembre del 2009, ma è uscito solamente qualche settimana fa, anzi ormai un paio di mesi fa, all'inizio proprio di questo 2024. Come dicevo, è un album di rockabilly, quella forma, chiamiamola primitiva, ma non è un diminutivo, anzi, o dispregiativo, è una cosa che è solamente di carattere temporale. Rockabilly è partito tanti anni fa e principalmente le band rockabilly sono un trio, e anche in questo caso ad accompagnare il nostro reverendo abbiamo Jimbo Wallace al contrabbasso, e Paul Simmons alla batteria. Andiamo ad ascoltarcelo subito, un brano che riguarda proprio il Texas, guarda caso, e ci dice che non ci sono più saguari in Texas. Saguari sono quelle cactus super giganti che spopolano addirittura, oserei dire, nel sud degli Stati Uniti, ma lui ci dice che non ce ne sono più in Texas. Ain't no saguaro in Texas. Lui è Reverend Horton Heat, live in Houston. It's great to be back in Houston, Texas. Before we go any further, let's have a great round of recognition for some good buddies. buddies of ours, one of the best damn bands around, Nashville Pussy. All right. Okay, I gotta tell you, we did a new album. And now this one leans country, okay? And it's not because we're going country, you know, it's just for this one album we decided to do something a little different. We're gonna play some songs off the new album right now. You'll see it's not completely country, you know, kind of rockabilly kind of stuff going on in there too, but this first song needs explaining because I know a lot of people here in Texas must know about this, but in Texas, I think we have a problem with artist renditions of stuff that is supposedly Texan. You know, like, and most of it I'm used to. You know, we're used to the oil well icon, the longhorn steer, the six shooter, the stripper at the titty bar. Oh, maybe not that, I don't know. Maybe, I don't know. No, it's the big saguaro cactus is the problem. The beautiful, majestic saguaro cactus. They grow to be 20 feet tall. They live to be hundreds of years old. And they don't grow within 1,000 miles of fucking Texas. Oh, you're gonna have to bleep that one out. I mean, maybe 400 miles from El Paso, but they're not even in New Mexico. They're only in the southern part of Arizona, northern Mexico region called the Sonoran Desert. And of course, people there love it when we play this song. But I tell them, you know, I say, hey, you know, we don't have that one, but we have a lot of cactus in Texas. We've got prickly pear cactus, rat tail cactus, coral cactus, peyote. Yeah, see, I wrote a song about the wrong kind of cactus, didn't I? Oh, well, anyway, here we go with a song called Ain't No Saguaro in Texas. There's something that's been bugging us, Texans, and it's time that we set the record straight. Concerning a species of cacti that grows in a whole different state. The cactus in question's called saguaro. It's tall with big arms in the air. And if you ever travel to Texas, I'm sorry, but you won't see them there. Hollywood and misinformed artist made the saguaro a Texas icon. But the saguaro only grows in Arizona, where people got them out on their lawn. I love the Sonoran Desert. I bet people there are glad I'm telling you that the saguaro only grows in Arizona and part of northern Mexico too. There ain't no saguaro in Texas. It's not the kind of cactus we've got. But somehow we're stuck with this image, and changing it is gonna take a lot. Folks in Mexico and Arizona are probably glad that I've cleared the air. There ain't no saguaro in Texas, but we sure got a lot of prickly pear. Yeah, it's true that we've got a lot of desert. We've got a lot of piney forest too. Hundreds of miles of beaches. Hollywood just doesn't have a clue. There's prickly pear cactus in Texas. The bolitos are sure good with eggs. Boots are required footwear, so cactus needles won't stick your legs. Longhorns and blue bonnet flowers, live oak trees and great barbecue. rat tail and coral cactus, mesquite trees and peyote too. Yeehaw! There ain't no saguaro in Texas. It's not the kind of cactus we got, but somehow we're stuck with this image. Changing it is gonna take a lot. Folks in Mexico and Arizona are probably glad that I've cleared the air. There ain't no swallow in Texas, but we sure got a lot of prickly pear. Yeah, we sure got a lot of prickly pear. No, there ain't no swallow in Texas. Lunga introduzione a carattere botanico da parte di Reverend Horton Heat per introdurre questa Ain't No Saguaro in Texas. Lui ha spiegato molto meglio di me la genesi di questa canzone, che appunto riguarda questi enormi cactus che pare in Texas siano abbastanza rari, oramai quasi scomparsi. Il tutto viene dalla novità che vi propongo quest'oggi, Live in Houston, appunto nuovo album live di Reverend Horton Heat, album che oramai ha qualche mese sulle spalle, ma che è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione. Come dicevo, questo album è stato registrato a Houston, città del Texas che è la più popolosa dello stato della stella solitaria, si dovrebbe dire, ed è la quarta città più popolosa di tutti gli Stati Uniti, quindi direi che è abbastanza, sono più di 2.305.000 abitanti. È stata fondata nell'agosto del 1836, quindi non è che sia recentissima. Anche in questo caso, come del resto nel caso di Phoenix, direi che il grosso sviluppo della città è arrivata con l'invenzione, chiamiamola così, dei condizionatori, perché anche là non è freschissimo. E il tutto, Houston è stata chiamata così perché il generale Sam Houston vinse proprio in quell'occasione, in quelle vicinanze, una battaglia della guerra di indipendenza del Texas contro il Messico. È una grande città, molto musicale, molto sportiva, tutti voi conoscerete le varie squadre degli sport di cui siete appassionati, basket, baseball, calcio, eccetera. Ed è famosa anche per lo Space Center, che è un'attrazione a livello mondiale. Dicevo una città molto musicale, per citare solamente due nomi: uno vecchio, quello dei ZZ Top, e uno nuovo, quello dei Grand Bean, che è una band che vi consiglio caldamente, molto molto particolare ma molto molto intrigante, e loro arrivano direttamente da Houston. Avrete già capito che la prima parte della trasmissione di oggi è dedicata a questa città. E cominciamo con una texana che non arriva direttamente da Houston, ma arriva da Goose, che è una città non molto lontana da questa protagonista della prima parte della nostra trasmissione. Rudy Foster è attiva dal 1997, ha fatto diversi album, è una cantante gospel fondamentalmente, anche se poi nel corso della propria carriera ha esplorato buona parte dello spettro musicale totale, diciamo così. Stages, che ci andiamo ad ascoltare, è il primo dei suoi album live, ha fatti diversi, ed è stato registrato in diverse occasioni, in diverse serate naturalmente. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato all'Anderson Fairy Tale Restaurant di Houston naturalmente il 22 febbraio del 2003. È un brano che si chiama Real Love, lei invece si chiama Ruthie Foster. Surrounded by percussion. Yeah! The dance floor is open. Can you guys help me out? Yeah! Yeah! Yeah! like a feeling. You never know about just how too much of a good thing is better than to be without. All I wanna know, all I wanna know, all I really wanna know is do you got a real, real, real love? Do you got a real, real, real love? Do you got a real, real, real love? Do you got a real, real, real love? You got to know true love, yeah, without hesitation. Yeah! Ci sono registrazioni live nelle quali il pubblico viene lasciato in sottofondo, a volte anche troppo, oppure come in questo caso nelle quali il pubblico viene enfatizzato anche troppo, anche in questo caso. Mi scuso per questa esplosione improvvisa di pubblico che è arrivata dopo Ruthie Foster. Questi comunque erano Three Doors Down e avrete capito appunto dall'entusiasmo del pubblico, soprattutto femminile, che è una band molto famosa negli Stati Uniti, anche se qua in Italia non è molto conosciuta. Loro arrivano dal Mississippi, sono attivi dal 1996 e, come dicevo, hanno questo grande successo negli Stati Uniti, successo che è partito con il loro primo album, che si chiama The Better Life, che è stato pubblicato nel febbraio del 2000, e invece nell'ottobre del 2007 è stata pubblicata questa Deluxe Edition, che sono due CD. Il primo naturalmente è l'album originale debitamente rimasterizzato, il secondo invece è un concerto che è stato registrato al Cynthia Woods Mitchell Pavilion di Houston, naturalmente Texas, che è il fulcro della trasmissione, della prima parte della trasmissione di oggi. Il brano che ci siamo ascoltati è quello che ha tuttora il maggior successo nell'ambito della discografia dei Three Doors Down, si chiama Kryptonite, e ci ha portato fino alla pubblicità. Inconfondibile la voce di John Anderson degli Yes, gli altri cantanti che hanno cercato di sostituirlo nell'ambito della band non sono neanche lontanamente vicini a questa voce veramente angelica. Comunque, Yes, ce li siamo ascoltati in questo brano che unisce due pezzi, Make It Easy, Owner of the Lonely Heart, naturalmente forse il loro brano più famoso. Il tutto arriva da un triplo dischetto che si chiama The World is Live, un box set che passa in rassegna praticamente tutta la loro carriera ed è una cosa veramente molto molto interessante. Naturalmente Yes, non starò a dirvi che sono attivi dal 1968, anche se allo stato attuale non c'è nessuno dei membri originali. Comunque il tutto, questo brano, ripeto, Make It Easy, Owner of the Lonely Heart, è stato registrato al Summit di Houston, of course, che è la città della quale ci stiamo interessando in questa prima parte della trasmissione. Era il 19 febbraio del 1988. E ci sono personaggi che, anche se non sembra, sono molto importanti nella storia della musica rock, personaggi che vengono chiamati gregari, che ribadisco, anche in questo caso non è un termine dispregiativo, anzi, che però ogni tanto poi hanno delle uscite discografiche per proprio conto, hanno una carriera discografica e concertistica per proprio conto. Uno di queste stelle si chiama Nils Lofgren. Molti di voi lo conosceranno perché allo stato attuale è il chitarrista, uno dei chitarristi per meglio dire, della E Street Band di Bruce Springsteen, ma in realtà lui, che è nato a Chicago ma è cresciuto poi nel Maryland a Bethesda, e lui partì all'età di 5 anni suonando l'accordion, cioè la fisarmonica. Vinse anche dei premi con questo strumento, poi una volta cresciuto è passato alla chitarra e al piano. La sua prima band è datata 1971, si chiamava Green, ma durò solamente un paio d'anni, nel 73 si sciolse. Dopodiché il vecchio Nils ha suonato con Neil Young, quindi scusate se ha suonato con poca gente, è considerato uno dei migliori chitarristi in assoluto sulla scena musicale mondiale. Ha una propria carriera, come vi dicevo, con parecchi album live, alcuni dei quali accreditati al solo Nils Lofgren oppure alla Nils Lofgren Band, come in questo caso, nel caso che ci andremo ad ascoltare. Nils Lofgren Band, che spesso comprende anche suo fratello Tom, che suona la chitarra e le tastiere e le percussioni. Ma ce l'andiamo ad ascoltare in questo che è l'ultimo album live che ha pubblicato, esattamente nel 2020. È stato registrato in diverse occasioni e in diverse serate, naturalmente. In questo caso siamo al Lakes Theater di Houston, il 31 maggio del 2019. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Too Many Miles, Nils Lofgren. Of a abuse and neglect. Sad to think of misery. Only friend I have left. But I've traveled too many miles down this road. Big fan of the Texas songwriters. So I always like coming down this way. I get a chance to meet a few of my friends, the folks whose work I admire. It's been a fellow, one fellow's been putting out good records for so long, he's gonna come up. Alejandro Escovedo. He's going to sit. Should be all right, huh? All right, who's got it? Nails. Go! Smoke, drink my wine, wear my snakeskin boots somewhere I'll never find. Still be your lover, baby. Sweet. I'll take the floor. Sleep away, get your rest, I'll get mine. You'll be your lover, baby. La voce inconfondibile anche in questo caso, soprattutto nella presentazione di Bruce Springsteen insieme alla sua E Street Band. Avete sentito anche che ha chiesto a Nils Lofgren di fare l'attacco del pezzo all'inizio di questa Always a Friend. Una cosa un po' particolare quella che vi ho fatto ascoltare, nel senso che è un extended play di quattro pezzi che non ha un supporto fisico, è solamente, si può scaricare da internet e non esiste in CD, a meno che non lo riversiate come ho fatto io. E sono quattro brani con tanti ospiti, ognuno un ospite per ogni brano, per meglio dire: Danny Federici, Tom Morello, Roger McGinn e in questo caso questo Alejandro Escovedo, che è un chitarrista cantante che ha una storia lunghissima, perché lui è di una famiglia molto molto musicale e i suoi parenti, alcuni dei suoi parenti almeno, hanno suonato le percussioni con Santana e con tantissimi altri, mentre sua cugina è la fantastica Sheila E., la batterista di Prince. Lui ha iniziato con diverse bands tipo Nouns, tipo Rank and File e True Believers, tutte praticamente praticamente sconosciute dalle nostre parti, ma ha lanciato la propria carriera solista nel 1992, una serie di album notevoli e però non molto conosciuti dal grosso pubblico, anche perché alcuni sono abbastanza melanconici, diciamo così. E in questo caso invece il 14 aprile del 2008 era insieme alla E Street Band a Bruce Springsteen al Toyota Center di Houston, perché il management di Bruce era lo stesso di Alejandro Escovedo. Lo ripeto, il brano si chiama Always a Friend. But nobody's kidding nobody about where we go. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost to talk. Andiamo velocemente verso la conclusione, un paio di pezzi. Il primo arriva dai Linkin Park, una band californiana che nel 2017 è iniziato nel 1996 e nel 2017 ha interrotto la propria attività a causa del suicidio di Chester Bennington, uno dei due cantanti. Da quel momento non si sa bene se la band proseguirà o meno, diciamo che è in hiatus, come si suol dire, e che ogni tanto ha pubblicato finora un paio di canzoni prese dagli archivi, in cui c'è anche Chester Bennington. Live in Texas invece è stato registrato con la formazione al completo nell'agosto del 2003 a Reliant Stadium di Houston. Il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama In the End. Matter. I had to. baddest of the best that you've been gone. The baddest of the best that you've been gone. I lay around here and I just drink beer. The baddest of the best that you've been gone. Everything is bad including me. But being bad is good policy. It protects me from your past till your memory's gone at last. Everything is bad including me. Young girls and gin may be the cure. Young girls and gin may be the cure. I'm talking just as good as you stay pure. Young girls and gin may be the cure. Of the best that you've been gone. The baddest of the best that you've been gone. I lay around here and I just drink beer. The baddest of the best that you've been gone. The baddest of the best that you've been gone. The baddest of the best that you've been gone. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, siamo al 24 aprile 2024, 24/4/24, una cosa un po' particolare, ma abbiamo iniziato la seconda parte di Città Fujiko Live Club appunto con la novità che vi propongo quest'oggi, il Reverend Horton Heat con la sua Live in Houston, CD più DVD, molto molto accattivante, come sentite molto aggressivo anche da parte di questo cantante chitarrista che arriva da Corpus Christi nel Texas. L'album è stato registrato al Warehouse di Houston, Texas, del resto si chiama Live in Texas, era facile, la Live in Houston era facile capirlo, il 18 settembre del 2009, ma come ho detto in precedenza è uscito un paio di mesi fa, forse tre. E il brano che ci siamo ascoltati è il più cattivo dei cattivi, Baddest of the Bad, Reverend Horton Heat, Live in Houston. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel trascorrere degli anni, e lo so sono tedioso, ma devo dire che ci sono tantissimi brani registrati in questa giornata e il criterio di scelta è un brano per ogni decade come sempre. E per quel che riguarda il 1974, la decade degli anni 70, l'unico brano registrato in questa giornata è quello che vi farò ascoltare, ma prima c'è una piccola premessa. L'album in questione è ad opera di una band che si chiama Black Oak Arkansas. Non ci crederete, ma arrivano da Black Oak, una città dell'Arkansas. Sono attivi dal 1963, quindi pensate, tantissimi anni fa, erano ancora alla high school, e l'unico membro però originale è Jim Dandy, il cantante. Questo dischetto fa parte della serie King Biscuit Flower Hour e dice che è stato registrato al Festival di Reading nel novembre, il 21 novembre del 1976. Ora capite anche voi che il 21 novembre a Reading, che è vicino Londra, già piove quando c'è il festival normale in luglio. Per che riguarda novembre credo che sia assolutamente impossibile, e infatti con una rapida ricerca sono arrivato a sapere che è stato fatto in luglio, non in non in novembre, sempre però nel 1976. Questo per quasi tutti i pezzi, a noi invece interessa l'unico pezzo che è stato registrato il 24 aprile del 1974. È un brano che ricorda il nome del cantante, Jim Dandy appunto, e che è stato registrato non si sa bene dove, ma il 24 aprile del 1974. Il pezzo si chiama Jim Dandy to the Rescue, loro sono Black Oak Arkansas. Appartengono al cosiddetto filone sudista questi Black Oak Arkansas, sono secondo me la parte un po' più grezza rispetto ad altre band che pure in quanto a grezzitudine non scherzano, ma loro sono veramente un po' eccessivi. Jim Dandy to the Rescue, il brano che richiama il nome del cantante, unico membro rimasto della band originale, appunto Jim Dandy il cantante, il tutto registrato non si sa bene dove, ma il 24 aprile del 1974. Ci sono bands che sono molto apprezzate dalla critica, ma poi alla fine discograficamente non vendono quanto meriterebbero. Una di queste si chiamava Sound, un quartetto che arrivava dalla Londra del Sud, è stato attivo dal 1979 al 1988. Adrian Borland, il cantante chitarrista, era il leader e colui che era deputato a scrivere le canzoni, era un grande che purtroppo in seguito a una serie di vicissitudini si è buttato sotto un treno della metropolitana. Ma andiamo avanti, che i morti oramai nel campo della musica rock sono veramente troppi. loro hanno avuto un grandissimo successo in Olanda, ve li ho già fatti ascoltare qualche volta con delle registrazioni olandesi, la casa discografica olandese gli ha dedicato addirittura 5 volumi live. Qui invece abbiamo una box set di 4 CD, sono i loro primi 3, rispettivamente Jeopardy, From the Lion's Mouth, All Fall Down, Plus, come dice il titolo di questo box set, e il Plus è un quarto CD che è stato registrato per la BBC dal vivo in concerto. Sono 8 canzoni dal 1981, ma queste non ci interessano. Quelle che interessano a noi sono le 6 che sono state registrate al Paris Theatre, Lower Regent Street a Londra, il 24 aprile del 1985. Il concerto si chiudeva con quello che è forse il loro brano più famoso, ma c'è sempre da farne, insomma. Comunque si chiamava Missiles, loro invece si chiamavano Sound, 24 aprile 1985. Got the know-how. It's all above our heads, but it's coming down now, coming right down. Thank you. they make you hear a song. Mrs. Lee Cottage, where once was a town, swinging along to town. Ricordo sempre con grande piacere un concerto dei Sound al Punta Capo di Budrio, oramai tantissimi anni fa, non ricordo esattamente quando, che appunto si concluse con questa Missiles, come praticamente tutti i concerti della band nel corso del tempo. Qui eravamo al Perth Theatre, il teatro che la BBC, l'ente di Stato radiotelevisivo britannico, affittava per organizzare concerti che poi avrebbe trasmesso in TV. Il Perth Theatre è stato teatro di veramente tantissimi concerti. Questo è accaduto il 24 aprile del 1985 e questo dischetto molto interessante è compreso in un cofanetto che si chiama Jeopardy from the Lion's Mouth All Full Down Plus. I primi tre sono i nomi dei primi tre album in studio della band e il plus è appunto il quarto dischetto live. Now to foreign parts, namely Europe. But before then they're going to play a set for us and hear from their first. E questo è il presentatore, oserei dire collega britannico, ma andiamo avanti con una band che si è formata nel 1984 con il nome di Big Audio Dynamite. Poi nel 1991 è diventata Big Audio Dynamite 2, vale a dire 2, e con un lineup diverso naturalmente, e nel 1994 è diventato solamente Big Audio. A formare, diciamo così, tutte queste band è stato Mick Jones, chitarrista e cantante ex Clash, dopo che fu allontanato appunto dalla band di Joe Strummer. Una band che cercava di mescolare tantissime cose, rap, techno, rock naturalmente, e che ha fatto veramente cose egregie. Questo On the Road 92 è un extended play di 5 pezzi, 4 dei quali sono stati registrati a Ritz di New York City il 24 aprile del 1992. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama Contact. Song by John Martin, Scottish folk singer, rock and roll type of guy. It's called Over the Hill. Gonna leave you in disgrace. Nothing in my favor. Got the wind in my face. I'm going home. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. I can't get enough of sweet cocaine, get enough of a Mary Jane. Going back to where I come from, I'm gonna roll it back home again over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. I've been worried about my wife. Just one place for a man to be when he's worried about his life. I'm going home. Hey, hey, hey, over the hill. We're over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Going away to leave you, gonna leave you in disgrace. Got nothing in my favor, got the rain in my face. I'm going home. Hey, hey, hey, over the hill. Well, over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Vi confesserò che personalmente sono figlio unico e non riesco a capire certe dinamiche fraterne o sorelle, insomma. E questi due, Chris Robinson e Rich Robinson, oltre ad essere i leader dei Black Crowes ormai dal 1990, sono litigiosissimi, almeno lo erano, ultimamente pare un po' meno, però hanno praticamente sciolto i Black Crowes 3 o 4 volte a causa dei loro litigi, e però poi ogni tanto, come in questo caso nel 2006, si ritrovano loro due con due coriste in acustico a fare un mini tour per gli Stati Uniti. Non so bene spiegare questa cosa, ma è successa. Chris Rich Robinson of the Black Crowes appunto è accreditato questo ottimo album che si chiama Brothers of Feather ed è un acustico registrato al Roxy di Los Angeles il 24 aprile del 2006. Come ha detto lo stesso Rich in sede di presentazione, questo che ci siamo ascoltati era la cover di un pezzo di John Martin, ottimo cantante, cantautore, un termine che non mi piace molto, cantante chitarrista scozzese, purtroppo scomparso ormai diversi anni fa. Il brano si chiama Over the Hill, ripeto, Roxy di Los Angeles, 24 aprile 2006. L'ultima cosa arriva dal 2011 con una band che ha molto successo in tutto il mondo, si chiama Dream Theater. Loro sono attivi dal 1985, arrivano da Boston, ma John Petrucci, il chitarrista, e John Young, il bassista, sono gli unici membri originali costanti, perché il batterista Mike Portnoy se n'è andato nel 2010, batterista originale, se n'è andato nel 2010 ed è tornato all'interno della band lo scorso anno. I Dream Theater hanno fatto un sacco di album live e hanno una discografia parallela con un sacco di bootlegs ufficiali che fanno capo a una serie che si chiama Lost Not Forgotten Archives, in questo caso il live, perché alcuni sono anche in studio. E questo doppio dischetto è stato registrato in diverse parti del mondo, in diverse epoche, e si chiama A Dramatic Tour of Events, il titolo originale, Selected Board Mixes, cioè sono registrazioni effettuate direttamente dal mixer e sono state, come dicevo, effettuate in diverse epoche. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a Tokyo al Shibuya Axe il 24 aprile del 2012 e si chiama As I Am. Loro invece si chiamano Dream Theater. We'll be right back. feel welcome. Thank you. We shall do it again. Take care of yourselves. Si chiama As I Am, il pezzo che ci siamo ascoltati in chiusura di Recorded Today. Erano Dream Theater, naturalmente, registrati al Shibuya Axe di Tokyo in Giappone il 24 aprile del 2012, tratto da questa serie di bootlegs ufficiali dei Dream Theater, che ne sono veramente tantissimi e ce ne sono un po' di tutti i colori, di tutte le epoche. Prima di passare all'ultimo brano, che è appannaggio della novità che vi ho proposto, per meglio dire, quest'oggi, vi voglio ricordare che mercoledì prossimo, 1° maggio, naturalmente e obbligatoriamente, non sarò in trasmissione. Ci saranno tante iniziative della radio che vi propongo di ascoltare, perché sono tutte molto molto interessanti, dirette, trasmissioni apposite fra 25 aprile e 1° maggio. Quindi l'appuntamento con chi vi sta parlando è fra 15 giorni, sempre Città Fujiko Live Club, mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Come vi dicevo, vi lascio in compagnia della novità che vi ho proposto quest'oggi, un personaggio che non credo sia molto conosciuto dalle nostre parti. Si chiama James Heath, ma la sua band è anche lui, himself, si fa chiamare Reverend Horton Heath, da Corpus Christi, Texas. È un trio rockabilly con un buon successo negli Stati Uniti, soprattutto in Texas, a causa dei concerti incessanti praticamente in tutte le sere. Questo live in Houston, che è un CD più DVD, è stato registrato al Warehouse di Houston, chiaramente, il 18 settembre del 2009. Il brano con cui andiamo a concludere questa trasmissione è tutto un programma, si chiama Drinking and Smoking Cigarettes, bevendo e fumando sigarette. Reverend Horton Heath. Ciao a tutti da Nevio. All right, thanks a lot. Okay, here's one called Drinking and Smoking Cigarettes. Drinking and smoking cigarettes. I've been looking for a woman I have not met. I have not found her yet. Till I do, it's a surefire bet. I'll be drinking and smoking cigarettes. I've been winking at a wolf by the name of Annette. She's easy as women get. But we don't have no regrets. She's a gal who continues to let you keep drinking and smoking cigarettes. You look track fills every night and day. A shot of Jack Black and I'm ready to play. I know it ain't healthy, but it's quite alright. Till I find a warm bed and a lucky strike. Yeah, I've been thinking that I got no reason to fret. And I'm certain that my life ain't over yet. Slow down someday, you bet. With my pole and my fishing net, I quit drinking and smoking cigarettes. night. Yeah, I've been drinking and smoking cigarettes. I've been looking for one I have not met. I have not found her yet. Till I do, and she's her fire pet. I'll be drinking and smoking cigarettes. Yeah.